1, 2, 3. Adesso, tra poco ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. Eccoci cari amici, la 150esima settimana decisiva per abolire le province in pieno corso. E voi che fate? Amici miei, debosciatelli miei, siete ancora attardati nelle vostre lunghe colazioni. Io vi vedo. Pigri, forza, andate. Lo so, mi sto attirando tutti gli insulti di noi coloro. Ci dobbiamo subire Milan che ti rompe le palle sei mesi prima quando vai in ferie, dopo quando torna indietro, sospira, piange, ci dice che si alza al mattino regolarmente come io ho 30 anni che mi alzo alle 5 del mattino. Bravo, e non rompi le balle a me. Bravo caro ascoltatore, mi hai fatto venire anche la tosse dalla rabbia. Eccoci qua, dai, andiamo a leggere i giornali. È mercoledì 16 marzo e i titoli sono questi. Il Sole 24 Ore: pronto il piano flessibilità alle infrastrutture, 4 miliardi. Questo è il piano italiano per la clausola di flessibilità di bilancio in favore degli investimenti, e ne parla il Sole 24 Ore in prima pagina. Poi l'attualità internazionale: terrori e spari a Bruxelles, ieri ancora. È il Corriere della Sera che apre su questo, mentre Repubblica, lo vedremo tra poco, ha un'intervista al presidente egiziano Al-Sisi, che promette: avrete la verità su Regeni. Speriamo davvero. Le vicende italiane sono invece l'apertura per la Stampa. Meloni si candida e nel centrodestra scoppia il caos. Il Messaggero: Roma, centrodestra in frantumi. Il Giornale: Meloni, oh mamma mia. Puntini, puntini, si gioca ovviamente anche su il ruolo di futura mamma e di mamma di Giorgia Meloni. Sfascio capitale è il titolo dell'Unità. Come vedete è l'apertura comunque più gettonata sulla maternità, ma un altro tipo di maternità apre anche Avvenire. Maternità surrogata, all'Europa si risveglia. Dopo lo stop del Parlamento europeo, anche una commissione del Consiglio dei 47 Paesi sventa la manovra per liberalizzare l'utero in affitto. È un'altra vicenda. Voglio però partire dall'intervista che il presidente egiziano Al-Sisi concede a Repubblica, al suo direttore Mario Calabresi e a Gianluca Di Feo, entrambi inviati in Egitto a seguire e a testimoniare le parole del presidente egiziano, intervista di pagina 2 e 3. Nella quale, come scrive il direttore Calabresi, alla fine il presidente Al-Sisi accetta tutta una sfilza di domande senza però mai rispondere direttamente su chi possano essere i responsabili del delitto. Certo, in questa lunga intervista promette verità sulla morte di Regeni. Dice anche che questa morte è uno shock per l'Egitto come per l'Italia. Ciò che è accaduto è terribile e inaccettabile, dice il presidente egiziano. Non ci appartiene, sconvolge non solo il governo ma tutto il popolo egiziano. E voglio sottolineare il grande sforzo del governo nel combattere il terrorismo e l'estremismo per avere stabilità e sicurezza nel paese. Però a un certo punto, chiaramente, Calabresi e l'inviato Di Feo dicono: ma senta, avrete un'idea di cosa possa essere successo a Giulio Regeni? Risponde il presidente egiziano: sulla morte di Regeni ci sono molti interrogativi che dobbiamo porci. Il primo è sulla tempistica, in particolare la scoperta del corpo. Perché è accaduta durante la visita di una delegazione italiana di imprenditori col ministro dello sviluppo economico? Perché è accaduto mentre le relazioni tra noi hanno raggiunto un livello senza precedenti dal punto di vista economico e politico? Un'altra domanda è capire chi ha interesse a boicottare l'ampia collaborazione Italia-Egitto. Al che Repubblica chiede: lei quindi ci sta dicendo che i colpevoli del delitto vanno cercati tra i suoi nemici? Risponde Al-Sisi: parliamo dell'attacco al turismo, del crollo delle presenze russe azzerate, di quelle italiane, mettiamo insieme tutti i fatti degli ultimi mesi, congiungiamo i puntini e vediamo l'immagine completa. L'obiettivo è colpire l'economia egiziana e isolare il paese. Questa è una ritorsione per la grande guerra che l'Egitto sta conducendo contro le forze dell'estremismo e del terrorismo. Insomma, non dice molto di più, nel senso che non è che punta l'indice contro qualcuno, fa capire che più che tra i, almeno questa è la versione di Al-Sisi, più che tra membri del comunque vicini al governo, bisogna vedere a quelli che sono nemici del governo egiziano per cercare gli assassini di Giulio Regeni. Tra l'altro poi a un certo punto fa cadere anche una frase il presidente egiziano: mi permetta però di parlare anche di Adel Moawad Heikal, un egiziano scomparso 5 mesi fa in Italia, di cui non abbiamo mai avuto notizie e tutti gli sforzi di ricerca non hanno avuto successo, ma incidenti come questi non possono rovinare la relazione tra i nostri paesi. Chi è questo egiziano? Effettivamente non se n'è mai parlato in Italia, egiziano scomparso in Italia. Comunque staremo a vedere. Certo, quello che è successo ieri a Bruxelles ci ha fatto ripiombare un po' nel terrore, tutti quanti ci eravamo un po' distratti, una sparatoria a Bruxelles, poi diciamo blindano tutto, non fanno sapere. C'è da dire, mi fido della polizia di Bruxelles come mi fido, non so, del primo che passa per la strada se fossi in Pakistan, perché scusate il paragone magari esagerato, ma d'altronde i giornali raccontano, ma ce lo ricordiamo che Abdeslam, uno delle menti e forse esecutore del Bataclan, è letteralmente evaporato in Belgio, e l'hanno visto in 50, dicono di averlo visto, eppure i giornali lo raccontano, gli errori della polizia che credeva di entrare in un covo disabitato, questo è il Corriere della Sera pagina 3. O Repubblica, ancora di più, Carlo Bonini: pochi agenti, indagini sbagliate, la polizia belga messa sotto scacco, il raid che si trasforma in una catastrofe. Pare che ci siano tra l'altro morti agenti di polizia, almeno 4, forse un presunto terrorista o terrorista, ma non si sa chi, che è rimasto ucciso. No, 4 poliziotti sono rimasti feriti, no? Non morti fortunatamente, speriamo che si possano riprendere. Poi continua la caccia all'uomo, ci sono questi terroristi che evidentemente vanno in giro per il Belgio, non si riesce a scovarli, non si riesce a tracciare tutti i loro percorsi e a bloccarli, e comunque questo succede in Belgio, i giornali ne rendono conto. Vi devo raccontare, in quello che è il mio tentativo ogni giorno di scovare una bella storia dai giornali, quella che è la storia raccontata sulla Stampa, che parte per la verità non da una bellissima storia, perché si racconta la storia e la vicenda quotidiana dei pendolari, e in questo caso la tratta presa in considerazione da Torino-Milano dalla Stampa. Nicolò Zancar racconta i forzati dell'alta velocità, la nostra terza vita sui binari. Stress, ritardi, però perché è anche una bella storia, perché in tutte le storie negative la Stampa si sforza di cercare di trovare una storia positiva. Beh, intanto insieme a stress e ritardi nascono anche aperitivi, amicizie, conoscenze, e racconta la storia per esempio di una ragazza, si chiama Valentina Cobetto, una donna, non lo so quanti anni abbia, vive a Torino, lavora a Milano. Di mestiere disegna siti internet per le banche, ma mentre viaggia, chissà, magari ci sta ascoltando in questo momento. Io me lo voglio sognare così, insomma, sulla Torino-Milano, fa la pendolare. Se qualcuno magari sta ascoltando sulla Torino-Milano, magari non lei, andate a cercarla, Valentina Cobetto, la riconoscerete sul treno, perché invece di chattare, invece di usare il cellulare, invece lei si diverte disegnando i pendolari. Li disegna e poi li mette su Instagram, li mette su Facebook. La sua pagina Facebook è Il Passeggero 8B, B come Bologna, no? Trovate così, Il Passeggero 8B, e racconta: c'è chi passa ore su un treno tutti i giorni, io sono una di quelli, incrocio le persone senza conoscerle, immaginandomi le loro storie, e un giorno ho conosciuto davvero il passeggero 8B. Da quell'incontro ho voluto dare un volto e una storia a tutti quelli che mi circondano nella vita da pendolare. Sono solo 50 minuti, ma sono un viaggio. Ci sono dei disegni bellissimi. Alcuni di questi sono gente ovviamente ritratta col telefonino, gente che dorme, le facce, i volti, le storie, immaginare. Beh, Valentina Cobetto trasforma questo suo viaggio da pendolare ogni giorno in una attività che la Stampa racconta, direi molto molto positiva. Ma siamo all'articolo che mi fa pizzore della giornata, e siamo su Libero, dove Claudia Osmetti racconta una di quelle storie da mala giustizia davvero incredibile, o meglio da giustizia lumaca, tipiche dell'Italia. Pietà, fatemi scontare la pena, è il racconto in anonimo di un cinquantenne di Milano che è un ex imprenditore fallito, dice: io ce l'ho messa tutta, ho fatto poi la bancarotta preferenziale, ho preferito pagare i fornitori piuttosto che lo Stato, pensavo che avrei regolato la mia posizione quando le cose sarebbero migliorate. Ma invece è stato condannato a 18 mesi. È stato condannato a 18 mesi con la possibilità di affidamento ai servizi sociali. Che succede però? Per la burocrazia, dopo la condanna, è dal 29 ottobre del 2015, quindi quasi 5 mesi, che aspetta che venga fissata l'udienza per discutere il suo caso davanti al Tribunale di Sorveglianza di Milano. Tutto fermo, non si muove cartella, non si capisce perché. E lui dice: ovviamente io non posso fare nulla, non posso prendere un lavoro, non posso cambiare lavoro, non posso fare un weekend via, non posso programmare nulla della mia vita, perché nel momento in cui dovessi programmare nulla viene fissata l'udienza, devono scattare l'affidamento ai servizi sociali. E questo signore urla: pietà, fatemeli scontare, li voglio scontare, ho preso 18 mesi per un reato amministrativo, c'è la domanda per i servizi sociali, aspetto da più di 5 mesi, la mia vita è bloccata. Ovviamente sono tantissimi come lui, ma Libero racconta queste storie di giustizia lumaca dal paese Italia. Agghiacciante quello che dicono, è una vergogna. Alessandro Milan, tu sei migliore a leggere i giornali, ovvia. Ovvia, e che bello. Allora, grazie cara ascoltatrice, al 349-238-6666 le vostre sigle, se vi volete firmare, volete anche dire: sono Antonio, sono Angelica, sono Mattia, ecco, uso i nomi dei miei figli, sono Lorenzo, come Lorenzo è, sono Peter Bescape, sono Alpino anch'io. Insomma, firmatevi, così almeno rimane traccia di voi, se non vi vergognate troppo, Allora, cari ascoltatori, le amministrative, ma io l'ho detto anche prima, ma non è uno spettacolo, e senza neanche pagare il biglietto, anzi alla fine ci chiedono il voto, è uno spettacolo, ma è uno spettacolo di quelli veramente che uno si mette comodo in poltrona, assiste alle dichiarazioni, assiste alle giravolte, ai capovolgimenti, alle cose che, alle alleanze che si uniscono, alleanze che si rompono, e dici: ma che bello spettacolo. Non sarete di quelli che chiedono anche attenzione ai programmi, cosa vi faranno per sistemare le buche, cosa penseranno di fare per, non so, abbassarvi le tasse. Insomma, siete un po' pedanti se chiedete queste cose. Per il momento c'è lo spettacolo puro, lo show. Allora, nel centrodestra certamente c'è lo spettacolo migliore, a mio modo di vedere. Giorgia Meloni oggi annuncerà, ormai è ufficiale, annuncerà: mi candido a sindaco di Roma. È il giorno della candidatura e questo ha rotto totalmente gli argini, anzi, come scrive Francesco Verderami sul Corriere della Sera, la candidatura aprirà il vaso di Pandora. Berlusconi è furibondo con Salvini e la Meloni. E sentite che cosa si raccoglie leggendo qua e là i giornali. Allora, il Corriere della Sera, appunto, Francesco Verderami, pagina 6. Umberto Bossi che dice: ma davvero così Salvini pensa di diventare il candidato premier del centrodestra? È un coglionazzo. Un coglionazzo, così Umberto Bossi su Salvini, Matteo Salvini. Berlusconi invece sulla Meloni: e pensare che l'ho fatta ministro, nemmeno la ricevo ora, perché questa è la logica un po' berlusconiana, ti ho fatto e quindi ti distruggo. E soprattutto Berlusconi aggiunge: gli uomini del fare, i politicanti, qual è il lavoro di Giorgia Meloni? Dopo aver detto ieri che Salvini ha fatto solo la comparsa a Mediaset, la Meloni l'unico lavoro che ha fatto nella vita è stata la babysitter a casa di Fiorello. Questo Silvio Berlusconi ai suoi. Se andate sulla Stampa addirittura diventa così: due ragazzotti, Giorgia Meloni e Matteo Salvini. Giorgia si sta suicidando politicamente. Matteo Salvini la userà e poi la scaricherà. E la Meloni stessa, dice Berlusconi ai suoi, le avevo chiesto di candidarsi, mi aveva detto che voleva preservare la gravidanza. Ora fa la femminista offesa perché io e Bertolaso abbiamo detto che è meglio evitare la campagna elettorale massacrante. Comunque, come sintetizza il Messaggero, che si schianti pure. Questa è la politica, signori. Non è un gioco persone di cuore, come si è accorta la candidata Movimento 5 Stelle a Milano, Patrizia Bedori, ex candidata. È un teatrino per squali puri. E infatti Giorgia Meloni racconta Carmelo Lo Papa su Repubblica, pagina 12, in un retroscena, dice così: mi ha costretta lui, Silvio, mi sta costringendo. Oggi si chiude una pagina, cioè mi candido proprio perché mi ha offesa come donna. Scendo in campo per combatterlo. Insomma, devo tanto a lui, ma non tutto. Mi ha fatto ministro giovanissima, è vero, ma io la politica la mastico da quando avevo 16 anni. Quel che è certo è che il suo Bertolaso non diventerà mai primo cittadino di Roma. Cioè, capite che è un gioco, come io dico da giorni, a ciapanò, si dice a Milano. Cioè, pur di non vincere, pur di non far vincere Bertolaso, Giorgia Meloni dice mi candido. L'importante è che il suo candidato non vinca. Quindi non vincerò io magari, questo è il sottodetto, ma l'importante è che non vinca neanche lui. Il clima è questo. Stiamo a vedere oggi la candidatura ufficiale. Beh, insomma, poi uno salta su Libero e scopre, intervistato da Francesco Specchia, Clemente Mastella, pagina 6, dice: il centrodestra lo salverò io. Ma voi capite che è proprio uno spettacolo, ripeto, senza neanche pagare il biglietto. Tra l'altro, su questa cosa della maternità, ci sono decine di articoli, decine: può una mamma fare il sindaco, può non farlo, deve decidere lei, non deve decidere lei, se fossi suo marito ci ha detto Bertolaso che poi non è sposata, se fossi il compagno la preserverei. Insomma, ci si iscrive a questo elenco di interviste anche l'avvocato Giulia Bongiorno, che è stata anche parlamentare, con il piccolo figlio Ian, dice: beh, sindaco e mamma, non so come farà. Poi ce la farà, ma intervistata dal Giorno da Rosalba Carbutti, dice: Giorgia Meloni dovesse essere sindaco, non so come farà. Questo dice. In tutto questo c'è anche, scusate, io sorrido, ma perché quando l'ho letto effettivamente come è stato dipinto così, un pochino mi ha fatto sorridere. A Napoli è stato scelto il candidato del Movimento 5 Stelle attraverso le comunarie, no? Come le chiamano. Allora, è stato scelto una persona che vive a Napoli da anni e al Movimento dicono una persona eccezionale, onesta, competente, così dice Roberto Fico, napoletano, è un ingegnere energetico che da anni si dedica con passione ai tanti temi di interesse della città. Però, registro, come scrive Fulvio Buffi a pagina 9 del Corriere della Sera, candidato sindaco del Movimento 5 Stelle a Napoli, si chiama Matteo Brambilla, 46 anni, nato a Monza e che si proclama tifoso della Juve. Ora, io dico... Per carità, come al solito, facciamo gli auguri a tutti indistintamente, non parteggiamo per nessuno. Ma, non so, voi vi vedete Mauro Meazza, tifoso dell'Inter, nato a? Milano, buongiorno. Che si candida a Palermo dicendo tifo Messina. Cioè, non... come dire... Ma, scusa, tu non ti sei... capisco che la cosa susciti la tua... sorpresa, ma tu stesso non ti sei candidato a Roma? Sì, è vero. Anzi, quindi... oggi devo fare una promessa elettorale, eliminerò tutte le buche di Roma, tutte. Anzi, bel cemento anche sui San Pietrini, anche quelli secolari, cemento armato dappertutto, tutto dritto. Va bene, ok, allora hai detto la tua cosa elettorale, non definiamola per carità di patria. Sì. Invece ti volevo invitare alla lettura del Sole 24 Ore, caro Alessandro. Va bene. Non solo del Sole 24 Ore, naturalmente, che trovi in edicola, perché in edicola anche trovi il focus sulle multe del fisco, le sanzioni del fisco che sono state riformate. Siccome parecchie cose sono cambiate in tempo... non consente di esplicare tutto quanto quello che è cambiato, però io ti segnalo appunto soprattutto la mappa delle nuove sanzioni a pagina 2 e 3, riguarda non solo i professionisti ma anche, non so, potrebbe capitare anche a te, io non te lo auguro naturalmente, però può sempre succedere. Hai visto che sulla riforma della pubblica amministrazione e nella fattispecie sulle semplificazioni c'è un po' di ritardino nell'attuazione, perché si voleva un regolamento che facesse, dimezzasse i tempi delle grandi opere, però insomma c'è un po' di attrito con le regioni, ma te ne parliamo bene nella seconda pagina di oggi. Oh, ti posso, scusa, dobbiamo fare una breve interruzione, qui Radio Fisco. Bene. Abbiamo il dato del TFR di febbraio. Ah. Tu non capisci. È come Radio Londra, è la nostra Radio Londra. Chi doveva capire ha capito. Che per molti è un segnale importante. Abbiamo il dato del TFR di febbraio. Oh, ti voglio dire una buona notizia, tu che la cerchi sempre. Sono un po' calate le sofferenze bancarie. No, a 83 miliardi erano 89. Chissà che... magari sarà una buona notizia anche per il futuro. Oh, e poi, infine, ma non per questo meno importanti, ci sono attualmente 62 milioni di certificazioni uniche, sai, il riepilogo dei redditi, sì, che adesso l'Agenzia delle Entrate deve gestire per prepararci le dichiarazioni precompilate. Guarda che l'ho detto senza refusi questa volta, precompilate, con la C di troppo. Ecco, e poi mi accusi di essere disfattista. Infine, sempre su norme e tributi, che tu leggerai come ogni giorno, lo leggerai religiosamente. Bravissimo. Ti segnalo che per il titolo di avvocato e abogado, cioè coloro che hanno preso il titolo in Spagna, le sezioni unite hanno messo un paletto, hanno detto, beh, avvocato eserciti qui, ma almeno per 3 anni per diventare poi avvocato. Più spagnolo, però, avvocato. Avvocato. Non so, verrò, io non sono spagnolo. Però aspettiamo i contributi degli ascoltatori. E infine, importante, ieri ha concluso l'iter la direttiva che vieta l'uso delle manette in pubblico, coercitivi fisici. La ripresa, le foto non si possono Le foto, ma le manette in pubblico danno una serie di garanzie, appunto, per imputati, l'Unione Europea ci dice per favore no. E con questo, caro Milan, io ti saluto, ti do appuntamento domani, sai che stasera ci sarà del grande calcio. Sì, ma noi non diciamo niente, noi perché lo guarderemo, restiamo solo augurando del bel calcio, ma e se vince il bel calcio, ma esatto, stiamo a vedere, siamo diciamo abbastanza distaccati entrambi, molto. Tutto ciò premesso, traffico. Alessandro Milan, il travone dell'informazione. Beh, insomma, anche questa voce però poteva magari, dirci qualcosa di più. Chi lo sa. Va bene, allora, saluto tutti gli amici di Facebook, su 24 Mattino, sulla pagina, siamo in diretta, eccoci qua. Allora, vi ricordate, vi ho detto, forse il bollo auto, Renzi pensa a questo come taglio, come shock, come manovra sotto le elezioni. Beh, oggi il Messaggero torna su questo tema con Luca Cifoni e Alberto Gentili, tra l'altro il nostro contest tra gli ascoltatori, quando c'è anche Oscar Giannino più tardi, se volete continua anche oggi, cosa tagliereste voi di tasse? Il Messaggero dice che Renzi pensa proprio a questo, al bollo auto, ma Tommaso Nannicini, che è sottosegretario da qualche tempo nella nuova cabina di regia economica di Palazzo Chigi, ha cominciato a esplorare varie opzioni. La prima è un intervento sul bollo auto, ma con Bruxelles la trattativa è difficile e allora si pensa al limite a una sforbiciata del bollo auto. Se no, si pensa anche all'introduzione della flessibilità in uscita nel mondo del lavoro. Questo come possibilità seconda. Ovviamente questa è una riforma un po' più complicata. Comunque si pensa a questo. Il Messaggero lo dice, se vi tolgono il bollo auto ve lo tagliuzzano attorno ai periodi della campagna elettorale, cioè adesso entro giugno. Sapete perché. Oh, noi avremo ospite Raffaele Cantone, è il capo dell'autorità anticorruzione, alle 8:40, perché il suo rapporto, che è finito, è anticipato da tutti i giornali ieri, oggi approfondito, racconta di appalti illegali a Roma. Oggi tutti i giornali sono pieni di queste notizie, appalti illegali a Roma, guarda qua Repubblica, gli appalti fuori legge, Cantone denuncia, è una continuità di fatto Alemanno Marino. E cioè il Messaggero, questo è il titolo, racconta che il cambio di amministrazione non ha dato questa scossa. E c'è un'intervista al prefetto Tronca, anzi un po' più dura, Tronca, il prefetto Francesco Paolo Tronca, intervistato da Repubblica: revoco i contratti irregolari, punisco i responsabili, mando le carte ai magistrati. Perché nella relazione di Cantone si dà tempo al 45 giorni al prefetto Tronca di prendere i provvedimenti. E Tronca, sentite cosa dice, intervistato da Stefano Cappellini, non la manda a dire a nessuno. A Roma c'è un problema etico. Inizia così: c'è un problema etico. C'è un'illegalità portata a sistema. Io revocherò gli appalti irregolari, non posso oltrepassare la linea rossa dell'ordinaria amministrazione, ma è dovere fare tutto quanto è nelle mie facoltà. Qui a Roma i paletti della Costituzione sono inequivocabili, ma c'è chi pensa che siano elastici, dice sempre il prefetto Tronca. La mafia si combatte anche così, non occorre aspettare il morto ammazzato per strada. A Roma, sulla base di quel che ho visto, sarebbe facile dare ragione a Cantone quando dice che Roma non ha gli anticorpi mentre Milano sì. Ma voglio porre la questione in modo diverso. Roma ha risorse incredibili per scrollarsi le incrostazioni e le ambiguità che si sono stratificate in decenni. Ma a Roma si parla troppo, si ascolta poco e si fa ancora meno. Questo è il momento di agire. Il prefetto Tronca, quando si dice parlar chiaro, intervistato da Repubblica. Ora però tutti speriamo lo faccia queste cose, le faccia queste cose, revocare i contratti irregolari, insomma fare tutto quello che deve fare. Ci sono anche varie interviste. Alfonso Sabella, che era assessore con Marino, ha scritto anche un libro, Capitale Infetta, ha raccontato anche varie volte qui ai nostri microfoni il fatto che Roma sia ingovernabile, parole sue, aggettivo utilizzato da lui. Ora Alfonso Sabella, che fa due interviste oggi all'Unità e al Fatto Quotidiano parlando di questa relazione di Cantone, però la vera notizia su Alfonso Sabella c'è su Repubblica. Si dice su Repubblica che Alfonso Sabella, ora ex assessore di Marino, tornerà a fare il consulente di Renzi, quindi per il governo, contro la corruzione a Roma, consulente giuridico. Allora, devo fare polemica, se volete, col massimo rispetto. Ci sono ancora dettagli sull'omicidio di Roma. Pensate che il dettaglio più raccapricciante che esce fuori è questo: ci sarebbe un video delle sevizie di Luca Varani da parte di Prato e Foffo, cioè i due suoi assassini. E infatti hanno sequestrato un PC. Ecco, ci sarebbe il video. La polemica che devo fare col massimo rispetto è questo. Lo trovate sulla Stampa, Grazia Longo: non perdoneremo mai gli assassini del nostro Luca, meritano la pena di morte. Questo è il titolo di pagina 17 della Stampa. Meritano la pena di morte. Anzi, se volete aiutarci voi giornalisti, fate una raccolta di firme per chiedere la pena di morte per quei due lucidi assassini. Io, che me ne sono occupato per anni di pena di morte negli Stati Uniti, dico no, mai, mai. Questa è la mia posizione personale, per la quale sono disposto a discutere con chiunque. Mai la pena di morte in nessun caso. E mi scrivono: neanche per Breivik. Breivik è quello che ha fatto il saluto nazista, quel pazzo là in Norvegia. Neanche per questi due, no, mai, mai. La pena di morte dove c'è non è un deterrente per il crimine, non è economicamente vantaggiosa, non ristora la serenità ai familiari delle vittime, è provato, è solo una vendetta. Allora, vogliamo dire che c'è la vendetta di Stato? Va bene, torniamo alla giungla, torniamo ai trogloditi, torniamo ai nostri antenati. Se invece uno Stato si eleva sopra il livello dei trogloditi, non può permettere una vendetta privata. Questo penso io. Mai la pena di morte. Quando però i genitori aggiungono sulla Stampa: se non proprio la pena di morte, ci vuole l'ergastolo, questo dico sì, in carcere per sempre. Su questo non c'è alcun dubbio. Va bene, dai, siamo alla carta costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali. Eccola qua, è una pagina del giornale di Matteo Basile, pagina 17, che studia l'evoluzione a quattro zampe. Come sono mutati in 100 anni ad alta fedeltà i cani, lo studio che mostra quanto siano cambiati i cani più grandi, più forti, oppure alcuni sempre più bassi, però sempre... fedeli all'uomo. Wah! Anche alla donna. Wah! Wah! Ma chi se ne frega!